dicevo, dobbiamo presentare i miracoli di Gesù, scusate, e anzitutto puntualizzando un aspetto che è stato sempre ben chiaro nella dottrina della Santa Madre Chiesa Cattolica, cioè perché Gesù ha fatto i miracoli. Perché? Sono varie motivazioni, d'accordo? Sono note in una branca particolare della teologia che si chiamava e si chiama tuttora l'apologetica. Allora, anzitutto cos'è un miracolo? Voi sapete che un miracolo è un evento, quando è proprio un miracolo in senso stretto, empiricamente constatabile, cioè cade sotto la percezione dei sensi e consiste in un fatto straordinario ed umanamente inspiegabile, generalmente una guarigione istantanea da un male per il quale tale guarigione o è impossibile o, se è possibile, necessita di un processo lungo, d'accordo? Vedremo che questa sera c'è la guarigione della suocera di Pietro dalla febbre anche molto alta, si guarisce, però non si guarita e guarisci subito, d'accordo? Anche quando fosse la febbre. Da altre cose, tipo il mutismo congenito, d'accordo, o la cecità congenita, non c'è modo di guarire. Per cui se c'è una guarigione, prendiamo il cieco nato di San Giovanni, che da cieco ci vede, è un fatto inspiegabile. Attenzione, questa inspiegabilità certa, d'accordo, è il segno dell'origine divina del miracolo, perché alcune cose che sembrano miracoli ma non lo sono possono venire anche dal diavolo. La prova di questo ce l'abbiamo, per chi conosce la Sacra Scrittura, nel libro dell'Esodo. Vi ricordate quando Mosè comincia a fare tutta quanto una serie di segni, tipo butta il bastone per terra, si trasforma in serpente, lo riprende e ridiventa bastone? Se voi andate a leggere, ma i maghi dell'Egitto fecero la stessa cosa. Perché? Perché il demonio non fa veri miracoli, ma essendo un angelo, conoscendo molto bene le leggi della fisica e altre, e sapendo manipolarle, può simulare delle cose che sembrano, pensate per esempio al santone Sai Baba. Tu andavi da Sai Baba e quello faceva te materializzare le polverine o cose di questo genere. Il discriminante però di un miracolo è anzitutto un fatto positivo, d'accordo? Cioè il demonio, se tu non c'hai la mano, non te la farà mai ricrescere. Se tu non c'hai gli occhi perché sei un cieco nato, non te li farà mai, perché il demonio non può creare, capite? Quindi ci deve essere questa caratteristica per poter parlare di vero miracolo, altrimenti no, altrimenti è una cosa. Perché? Perché il vero miracolo lo può fare solo Dio. Ed ecco perché Gesù li ha fatti. Prima cosa, i miracoli sono una attestazione della sua natura divina. Questo perché quando Dio opera, certamente noi sappiamo che siamo salvi per mezzo della fede, d'accordo? Però la fede nella sana e santa dottrina cattolica non è una fede cieca, perché altrimenti qualunque santone ci si presentasse davanti, d'accordo, sarebbe da andargli dietro. Allora, Gesù ha fatto i miracoli perché si è accreditato come figlio di Dio. Vi ricordate cosa dice nel Vangelo di San Giovanni? Se non volete credere a me, credete alle opere che ho compiuto. Nel Vangelo di San Giovanni, l'ultimo miracolo, far uscire dalla tomba un morto di 4 giorni, certo che alcuni, nonostante i miracoli, si sono ancora di più incattiviti e incrudeliti, però questo è anche il fondamento della loro colpa. Capite? Questo che significa? Significa che se uno si accosta sinceramente ai Vangeli e constata queste cose, voi dovete pensare che c'è una dimensione, che anche la storicità dei Vangeli, che è fondamentale, la Chiesa l'ha sempre difesa. Quindi i Vangeli non sono una leggenda, d'accordo? Si fondano su fatti storici realmente accaduti. Adesso vedremo questa sera che ogni miracolo, e ve lo dirò anche, d'accordo? Perché Gesù è intelligente, se fa una cosa la fa per molte motivazioni. Quindi ogni miracolo ha un significato spirituale che è adatto anche per noi. Cioè, che significato ha oggi per me sapere che Gesù ha guarito un muto? È semplicemente un fatto storico che mi attesta la sua divinità, oppure può avere un significato anche per me? Quindi Gesù può guarirmi da qualche forma spirituale di mutismo? Sicuramente è vera la seconda ipotesi, ma attenzione, questa seconda ipotesi poggia sulla realtà storica del fatto, capite? Che è importantissima, capite? Quando è risuscitato Lazzaro, cioè se qualcuno, se fosse scritto una menzogna nel Vangelo, qualcuno sarebbe alzato a dire: oh, ma che sta a dire? Non è vero questo qua, se l'ha inventato San Giovanni, capite? Cioè, il Vangelo di San Matteo, soprattutto, come abbiamo visto, è stato uno dei primi ad essere redatti, presumibilmente in aramaico, quindi quelli che avevano visto queste cose erano ancora vivi e potevano tranquillamente alzare il ditino e dire: ma che dici? Ecco, e questo non è successo. Questo perché la nostra fede poggia su fatti storici e su segni. Non si può parlare di prove in senso stretto, capite perché non si può parlare di prove in senso stretto? Perché tu, come diceva, ha dato la vista al cieco nato? No, ma non era veramente il cieco nato, ha mentito e i genitori hanno detto: tu ti puoi arrampicare sugli specchi come ti pare. Perché? Perché se fosse una prova assoluta, capite? Il teorema di Pitagora, che c'ha bisogno di un atto di fede, lo conoscete, no? Il quadrato costruito sui cateti è uguale al quadrato sui ipotenusi. Mi ricordo quando ero piccolino che stavo a scuola, dico: ma com'è possibile? Allora mi divertivo a disegnare tutti quanti i triangolini di Aurighello col cateto da 3 e da 4. Facciamo un po', poi andavo a vedere e corrispondeva. Poi lo facevo da 10 e da... c'è niente da fare, capite? Questo non c'è niente da fare, capite? Quindi non devi fare un atto di fede. Invece un segno forte non annulla completamente l'atto di fede, però rende l'atto di fede un atto umano, non un atto cieco, capite? Perché se no Tizio fa questo, Caio fa quest'altro, Semprano fa quest'altro, capite? Questo dimostra, questo fa capire anche perché Santa Madre Chiesa a volte sembra che faccia l'avvocato del diavolo. Cioè, prima di canonizzare una persona, almeno che è sempre stato, guardate che un processo di canonizzazione fatto bene, cioè tu dici: ma questi hanno la fede. Capite bene quello che sto per dire, non è che sto dicendo, perché sono così rigorosi, cioè prima di dire questo è un miracolo vogliono le prove, vogliono che un medico abbia attestato tutte le cose della malattia di Tizio, Caio e Sempronio, e devono stabilire un nesso diretto tra la guarigione, che deve essere considerata scientificamente inspiegabile, miracolosa, e la guarigione e l'intercessione del santo di cui si chiede la beatificazione, se non nisba, E addirittura per la beatificazione ci vuole il primo e per la canonizzazione ci vuole il secondo. I santi non fanno miracoli, capite? Però perché viene canonizzato? Perché se è successo un miracolo per l'intercessione di quel santo e i miracoli li fa solo Dio, dove sta quel santo? Il paradiso. E Dio vuole che sia glorificato. Però questa indagine è un'indagine rigorosa. Ecco, perché? Perché solo in presenza di un... sapete, i segni della divinità... certa, sono pochi. Gesù li ha dati tutti. Primo, il miracolo. Secondo, l'autorità sui demoni. Terzo, la conoscenza dei segreti del cuore e degli eventi futuri. Infallibilmente. Capite? Voi sapete che i maghi, gli stregoni, eccetera, eccetera, i cartomanti, ogni tanto fanno qualche previsione futura e la gente rimane impapocchiata e ci azzeccano. Conosceva il futuro. No, non conosceva il futuro, ma anche qua il diavolo c'ha il cervello. La conoscenza del futuro che c'ha Dio non è una conoscenza probabile, quindi spari e ci potresti cogliere. No, no, è una conoscenza certa. State attenti anche adesso in giro, le dico queste cose perché tutti quanti questi profezie, impicci, imbrogli, mistici e veggenti che girano, voi sapete che c'è più di qualcuno che ha dato prima del tempo annunci e proclami di fatti che sarebbero dovuti succedere e che non sono accaduti. Allora voi state sicuro, questa c'è una parola biblica certa, il profeta che dirà che accade un evento e quell'evento non accade, io non l'ho mandato, non ascoltatelo. Capito? Perché se Dio predice un fatto futuro, quel fatto futuro accade infallibilmente esattamente così come era stato predetto, se viene da Dio. Se così non è, da Dio non viene. Capite? Così come la conoscenza dei segreti dei cuori, no? Non so se siete mai visti quando eravate piccolini nelle trasmissioni, io qualche volta sì, alla sera che c'è stava quella che leggeva le carte in televisione, avete visto uno facendo un po', qualche volta mi sono messa qua, tutto dice, ma io vedo questo qua, e poi c'era l'interlocutore che diceva, infatti, cioè praticamente, parlava in termini molto generici, poi era l'interlocutore che gli dava gli imbeccamenti per fare in modo che questa, se invece cominciava a sbagliasse e vedeva che stava un pochino titubante, cambiava subito argomento, d'accordo? Ma Dio non è così, capite? Dio, cioè, situazioni che tu stai vivendo, no? Vedo questo amore che funziona, che non funziona, vedo una persona presente, tutto questo pedaggio di qua, in realtà era l'interlocutore che lo imbeccava. Invece Dio sa esattamente tutto quello che ci passa per la testa, infallibilmente, e questo Gesù l'ha dimostrato nel Vangelo. Pensate, per esempio, lo vedremo, a quando ha guarito il paralitico, lo vedremo questa sera. Perché ha guarito il paralitico? Lui gli dice, ti sono rimessi i peccati. Questi cominciano a pensare, non a dire, ma questo, ma come si permette a rimettere i peccati? I peccati li rimette soltanto Dio. Allora Gesù ne fa due con uno, manifesta la conoscenza di quei pensieri e dice, siccome pensate questo, che cosa è più facile, dire ti sono rimessi i peccati o dire alzati e cammina? Così abbiamo già spiegato un miracolo. Capite perché lo fa? Perché ti sono rimessi i peccati, lui lo dice, ma lo può dimostrare che i peccati sono rimessi? No. Quindi no, perché la rimissione dei peccati è un fatto interiore. Allora tu non ci credi? Allora che cosa è più facile dire, ti sono rimessi i peccati o dire alzati e cammina? È più facile dire sono rimessi i peccati, perché sono rimessi i peccati, io lo dico, tu non ci credi, ma dire alzati e cammina, se questo poi non si alza e non cammina, che figura ci faccio? E allora che fa? Alzati e cammina. Se si è alzato e ha camminato, gliel'avrò rimessi i peccati oppure no? Capite il ragionamento? Se si è alzato e ha camminato, io sono Dio, e se sono Dio, io ho il potere di rimettere i peccati. Non so se mi sono spiegato. Allora, questo perché capiamo il contesto dei miracoli di Gesù ed anche la collocazione di essi dentro quello che poi è stato il cammino della tradizione della Chiesa. Questa premessa era necessaria per capire bene di che stiamo parlando e adesso possiamo andare avanti e cominciare a vedere un po' bene i miracoli di Gesù secondo il Vangelo di San Matteo. Allora, facciamo un pochino di ripasso. Vi ricordo, stiamo nei capitoli 8 e 9. Ok, quindi siamo dopo il discorso della montagna e prima del discorso parabolico e del discorso missionario, capitoli 10 e 13. Primo gruppo di miracoli, Gesù guarisce il lebbroso, il servo del centurione e la suocera di Pietro. Secondo gruppo, la tempesta sedata, poi l'espulsione dei demoni, che questo più che un miracolo è un esorcismo, gli indemoniati gadareni, vedremo, e la guarigione del paralitico, quella di cui abbiamo appena parlato. Terzo gruppo, ce ne sono due, vi ricordate, no? Perché in realtà i miracoli sarebbero 10, però anche 10 è un numero molto significativo, perché 10 come i 10 comandamenti, 10 è il numero della totalità, quindi con questi miracoli Gesù ha fatto strike, cioè se non credi che sono Dio alla luce di tutte queste cose, c'è qualche problema, d'accordo? Però è anche il quadrato di 3, quindi 3, vi ricordo, è il numero perfetto, è il numero della Santissima Trinità, quindi il quadrato di 3 vuol dire la stessa cosa, che attraverso questa serie di miracoli è perfettamente dimostrata e sufficiente la natura divina di Gesù, ok? Quindi il terzo gruppo, l'emorroisse e la figlia di Gairo, i due ciechi e il muto, che poi vedremo, questo è un caso di mutismo derivante da possessione diabolica, quindi da azione straordinaria del demonio. Bene, adesso dato che dobbiamo leggere diverse cosette, andiamole a vedere. Il primo gruppo di miracoli, Allora, la guarigione del lebbroso. La leggiamo brevemente. Io di ogni miracolo, come vedete nelle slide, darò una breve descrizione. Molte cose le ho già detto, quindi stare attenti, così non mi ripeto. Questi fatti sono tutti realmente accaduti. Quindi c'era una lebbra e Gesù l'ha guarita. C'era una cecità e Gesù l'ha sanata. C'era un mutismo e Gesù gli ha aperto la bocca. C'era una paralisi e questo ha camminato. Ok? Adesso nella descrizione io mi soffermerò sul significato spirituale. Chiaramente sulla lettura spirituale dei miracoli, io adesso non vi tedio di citazioni, ma queste letture sono fondate, strafondate sulla tradizione della Chiesa. Io chiaramente qui stiamo facendo un incontro catechetico, non una lezione di teologia, perché se stessi a fare un corso di esegesi dovrei dire che la lebbra rappresenta questo, questo e questo, l'ha detto Origene nel commento a X, Y e Z, dando tutte le citazioni. Mo dovete farlo un atto di fede, perché non ho preparato, perché mi ci vorrebbe un mese per preparare l'incontro biblico in questo modo. Vado chiaramente a memoria e a reminiscenza di tutte quante le cose che ho imparato. Quindi fate questo piccolo atto di fede, perché altrimenti non ci potremo capire. Allora, di qua abbiamo la Bibbia, e quindi la vedete già bene così o la ingrandisco ulteriormente? Un po' più grande, quanto vi pare. Allora, abbiamo anzitutto Matteo, andiamo subito al capitolo 8 e cominciamo la descrizione. Più grande di così non si può. Basta? Sì. Allora, quando Gesù fu sceso dal monte, quindi appena finito il discorso della montagna, cominciano i miracoli. Quindi nel discorso della montagna Gesù sale come maestro e nuovo Mosè a... Boom, l'abbiamo visto in sintesi la volta scorsa. Tanto adesso faremo il ripasso, perché abbiamo ancora diverse domeniche in cui ci accompagnerà nella liturgia. Quindi scende con folla al seguito ed ecco venire un lebbroso e prostrarsi a lui dicendo: Signore, se vuoi puoi sanarmi. Gesù stese la mano, lo toccò, attenzione, dicendo: lo voglio, sii sanato. Vedete il miracolo? E subito la lebbra scomparve. Caratteristica del miracolo è l'istantaneità della guarigione. Ok? Poi Gesù gli disse: guarda, al dirlo alcuno, va a mostrarti il sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè, e ciò sarà una testimonianza per loro. Cioè lo esorta ad osservare la legge data da Mosè in ordine alla guarigione della lebbra, che c'era una prassi da rispettare, essendo la lebbra un male di ordine sociale e contagioso. I lebbrosi venivano messi nei ghetti, penso che lo sappiate, perché erano contagiosissimi. Basta un lebbroso per far secca una città intera. Allora, prima di essere ammesso nella comunità, dovevi presentarti al sacerdote, che ti faceva un esame, come dire, della pelle, rituale, e dopo che il sacerdote aveva garantito che eri guarito, potevi tornare a vivere nel consorzio civile. Ora, che cos'è la lebbra anzitutto? Il significato spirituale della lebbra, l'ho già detto in qualche omelia. Due peccati sono stati individuati dai padri della Chiesa. Primo, il peccato impuro. Voi sapete che i lebbrosi sono completamente deformati e puzzano in una maniera orribile. Il peccato che maggiormente deturpa la bellezza dell'anima e la rende una cloaca, perdonatemi il termine, è il peccato impuro in tutte le sue forme. Voi sapete che quando sono andato a confessare a Padre Pio, anche se dicevo ho commesso un atto impuro solitario, lui rispondeva con la sua forza: non lordatevi. Usava proprio questo termine, lordo, cioè tu fai una cosa del genere e diventi una lordura, un sudiciume, d'accordo? Una cloaca, un letamaio. Ecco, usate qualunque cosa che vi pare, ecco. Alcuni santi che avevano il dono di sentire, purtroppo non è un gran dono, le puzze, se si accostavano a un lussurioso gli veniva da vomitare peggio che se stessimo immersi in un mare di puntini, puntini, puntini, non lo diciamo perché, ecco. L'altra cosa che si fonda, vede, l'accostamento di questa lettura simbolica su cosa si fonda? Sulla deformazione, quindi sulla deturpazione che la lebbra produce. Sapete che le lebbrosi diventano dei mostri, e sulla puzza che mandano, d'accordo? Questo fa il peccato impuro nell'anima. Poi la lebbra però è anche molto contagiosa. Voi sapete che basta che un lebbroso te fa così e sei morto. Cosa significa questo contagio? Ecco, L'altra lettura che hanno dato i padri della Chiesa è l'eresia. L'eresia, l'errore. L'eresia e l'errore hanno questa brutta caratteristica che se qualcuno la spara in maniera intelligente, un'eresia, trova immediatamente una foga di followers, che oggi che siamo nel mondo multimediale, se la pubblica su Facebook c'ha subito 100.000 mi piace, d'accordo? Perché è contagiosissima, d'accordo? Ecco. Questo purtroppo è stato tragicamente dimostrato nel corso della storia della Chiesa, perché l'errore e l'eresia hanno sempre qualcosa di più interessante, di più suadente, di più facile e di più allettante della verità, che generalmente, come si dice anche nel proverbio e nella canzone degli anni 60-70, la verità mi fa male, lo so. Ecco, quindi è sempre più comodo andare dietro le favole che non andare dietro al vero. Ecco, per questo lo accostavano alla lebbra. Quindi lussuria e eresia sono le due significazioni della lebbra. Secondo miracolo, la guarigione del centurione, del servo del centurione. Entra in Cafarnao, un centurione romano lo scongiura dicendo: Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente. Gesù risponde, e già questa era una risposta scandalosa, perché un ebreo non poteva entrare nella casa di un pagano: io verrò e lo curerò. Allora il pagano dice: ma signori, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Fate attenzione, il lebbroso è stato guarito per contatto. Gesù stese la mano, lo tocca, dicendo: perché lo tocca? Altra dottrina dei sacri, dei padri della Chiesa. Se io vi dicessi oggi dove Gesù ha trasferito la sua forza guaritrice, non la usa più? Sì che la usa. Sapete dove? Nei sacramenti. I padri dicevano: quando Gesù era vivo, attraverso il contatto ordinario, reale, guariva le malattie, sanava i morbi, eccetera. Ora che lui non c'è più, ma scusate, che bisogno c'è di fare tutti quanti questi segni esteriori? Non potrebbe il Signore rimetterti i peccati direttamente? Non potrebbe comunicarti la sua vita senza legarsi all'Eucaristia? Certo che potrebbe, ma c'è l'economia sacramentale. Quindi, siccome noi siamo anima e corpo, il contatto realizza la santificazione. E quindi loro dicevano: ciò che era visibile di Gesù è passato ora nei sacramenti. E quindi per questo che sono necessari ordinariamente per la salvezza, perché attraverso il contatto con loro che Gesù usa in noi la sua forza salvatrice, salvifica. Però dicono anche i padri della Chiesa: Gesù usa ordinariamente i sacramenti, ma non è vincolato dai sacramenti, per cui può agire anche senza. Faccio un esempio subito: hai fatto un sacco di peccati, ti vuoi confessare, sei già pentito, muori prima che ti sei confessato, vai all'inferno o sei santo? Sei salvo, perché se non hai ricevuto il sacramento non per cattiva volontà, perché è venuto il prete e tu non ti sei confessato, ma per impossibilità indipendente dalla tua volontà, ecco che siccome Dio è Dio che opera ordinariamente attraverso i sacramenti, però non si è legato le mani, se vuole in certi casi ne può prescindere. Perché ne può prescindere? Perché è Dio, e Dio fa quello che gli pare, cioè non ha bisogno dei sacramenti, perché a Dio gli basta volere una cosa perché quella cosa accada. E guardate qui il centurione, che dovrebbe essere uno dalla mentalità ristretta, che crede in tanti dei, che è tra l'altro romano, e voi sapete che i romani erano tutti molto, dicono a Roma, terra terra, erano anche abbastanza, come dire, carnali e concreti. Cosa dice questo qua? Io non sono degno di soltanto una parola. È una cosa talmente grande, e questo è entrato nella messa, lo diciamo tutti i giorni, e il mio servo sarà guarito. Vi rendete conto di cosa sta dicendo? Cioè è la più grande attestazione possibile della divinità di Gesù. Cioè E poi lo spiega pure, dice: beh, guarda, io sono un subalterno, sapete che il centurione era una mezza tacca, la centuria erano 100 soldati, capite? Ma più della centuria c'era la legione, più della legione c'era l'esercito, sopra l'esercito c'era l'imperatore. Quindi diciamo che oggi non so bene i gradi militari, che potrà essere stato un caporale, non lo so come so, forse, che ne so, un tenente, un sottotenente, d'accordo, ma prima che arrivi al generale ce ne stanno di roba sopra, no? Dice: io sono un subalterno, però ho soldati sotto di me, soldati. Ma sapete la disciplina romana? Tu prova a disobbedire all'ordine del superiore, sei morto. Sapete che Roma ha conquistato il mondo perché il suo esercito c'è una disciplina che dire ferrea è dire poco, d'accordo? Se io dico una parola al mio soldato, a volte sta tranquillo e quello lo fa, d'accordo? Sicuro, senza nessun problema. Se gli dico va, va, e se viene, viene. E se dico al mio servo fa questo, quello lo fa. Quindi, allo stesso modo, tu puoi comandare ai morbi e i morbi ti ubbidiscono a bacchetta peggio di come non ubbidisce a bacchetta un mio subalterno. Ma voi capite che cosa sta dicendo? E infatti Gesù, all'udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse: in verità vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora ricordatevi quello che ci siamo detto al primo incontro, il Vangelo di Matteo, a chi è scritto? La prima sera scrittura, agli ebrei. In tutto il Vangelo di Matteo Gesù mostra se stesso come inviato alle pecore perdute della casa di Israele, quindi agli ebrei. Questo episodio però è un prodromo, perché tutto il Vangelo di Matteo è costruito sul fatto che Gesù va da Israele, Israele lo rifiuta, e per questo rifiuto c'è l'apertura universale della salvezza anche ai pagani. Ora qui c'è un overture, un prodromo, un'anticipazione, e Gesù dice subito, dice: vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe. Quindi Abramo, Isacco e Giacobbe sono i capostipiti del popolo eletto, i pagani, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, ove sarà pianto e stridore di denti. Qui non ce l'ha soltanto con gli ebrei, ce l'ha pure con noi. Io ho sempre detto che è molto più facile che incontri la salvezza di Gesù una persona che ne ha fatta di tutti i colori e che è stata lontana, che non una persona che è stata più o meno vicina per tradizione, per cultura o cose di questo genere. Capito? Può succedere anche adesso. Non basta far parte della Chiesa Cattolica, essere stati battezzati, questo lo dice chiarissimamente il Concilio Vaticano II, e lo diceva anche Sant'Agostino. Cioè, col battesimo noi entriamo con il corpo dentro la Chiesa Cattolica, d'accordo? Facciamo parte del corpo mistico di Cristo, ma non basta starci col corpo, bisogna starci anche col cuore. Cioè, tu devi ricevere i sacramenti, devi pregare e devi vivere una vita di santità, a cui chiaramente il battesimo ti abilita. Ed è per questo che è possibile la salvezza anche a chi non fa senza colpa parte della Chiesa Cattolica. Dice Sant'Agostino: stanno fuori con il corpo, ma stanno dentro con il cuore se, ignorando la necessità del Vangelo e di appartenere alla Chiesa per la salvezza, si sforzano di fare il bene da loro conosciuto in base alla propria coscienza. E in virtù del fatto che la redenzione operata da Gesù è universale e che il ministero della Chiesa nel mondo è universale, io quando celebro la messa prego anche, vi ricordate, per tutti gli uomini che ti cercano un cuore sincero, anche se non lo sanno quelli che stanno lontani, se non andranno all'inferno perché si sono salvati per questa rettitudine di cuore, è grazie alla redenzione universale fatta da Gesù e al ministero della Chiesa, come a suo tempo il cardinal Ratzinger spiegò benissimo nel documento Dominus Iesus, dove appunto spiegava in che senso si deve intendere la possibilità della salvezza anche per i non cattolici. Il terzo miracolo è la guarigione della suocera di Pietro dalla febbre. Vedete qui, è una cosa più breve, l'ho già spiegata prima, andiamo veloci. Dalla febbre in teoria si può guarire senza bisogno di interventi straordinari. Ma anche qui il discorso è la guarigione istantanea, le toccò la mano con la febbre e la febbre scomparve. Cosa rappresenta la febbre? Ok? Ecco, noi non sappiamo, per esempio, che malattia. Allora, il centurione era paralizzato, poi vedremo nella spiegazione della regione del paralitico cosa significa la paralisi. La febbre, nella tradizione, voi sapete, quando noi abbiamo la febbre, stiamo indeboliti, non possiamo fare quasi niente. Secondo voi, cosa vuol rappresentare la febbre? La febbre, dicono i maestri di spirito, sono quelli che conducono una vita troppo in alleanza col peccato veniale, perché stanno i peccati mortali, che è la morte, e ci stanno i peccati veniali. Simile cosa apparirà con l'emorroissa e con la figlia di Gairo, simile cosa. Il peccato veniale, però, qui noi diciamo, ma vabbè, non so che dire a questo, mo gli sparo una balla. La bugia di scusa è il classico esempio di peccato veniale. Pensiamo che non sia niente. Non è così, perché il peccato veniale da un punto di vista spirituale ti mette nella stessa situazione in cui stai da un punto di vista fisico quando stai a letto con 39 di febbre. Non è che sei morto, insomma, a letto con 39 di febbre non puoi lavorare, non puoi fare un sacco di cose, stai, come si dice, più di là che di qua. Ecco, così. E sapete che se uno che sta già debilitato con la febbre, se piena polmonite o se piena il cartro male, poi rischia la morte. Questo è quello che fa il peccato veniale nella nostra anima, cioè ci indebolisce, ci mette in stato, come dire, di quasi totale incapacità di poter fare opere utili per la salvezza e ci espone al pericolo. Dottrina della Chiesa dice chi si adagia sul peccato veniale ha il serio pericolo di commettere facilmente un peccato mortale. Questo è quanto insegna Santa Madre Chiesa nel suo Magistero. Con questo abbiamo esaurito il primo gruppo di miracoli e andiamo al secondo gruppo di miracoli, che è questo. La tempesta sedata, i due indemoniati gadareni e la guarigione del paralitico, che abbiamo già in parte visto. Allora, la tempesta sedata. Siamo nel capitolo sempre ottavo, un pochino più avanti. Sale su una barca e i suoi discepoli lo seguono. Si scatena una tempesta così violenta che la barca era ricoperta dalle onde ed egli dormiva. Provate a immaginarvi la scena, cioè in mezzo alla tempesta Gesù dorme. Allora, accostatosi a lui, lo svegliarono dicendo: salvaci Signore, che siamo perduti. Ed egli disse loro: perché avete paura? Uomini di poca fede. Quindi, levatosi, sgridò i venti e il mare e si fece una grande bonaccia. Allora, caruccio, no? Ecco. Allora, interpretazione quasi unanime dei padri della Chiesa. Questa si può applicare sia alla Chiesa, sia alla vita di una singola anima. Cos'è la barca? La barca è la Chiesa, oppure la barca è semplicemente la tua anima nel suo camminare per le acque che rappresentano il mondo. Cos'è la tempesta? I momenti di crisi, i momenti di prova, i momenti d'angoscia. Che ci succede a noi quando siamo queste cose? Signore, che fai? Dormi? Lo diciamo pure noi, no? Dice: ce lasci, abbandoni qua, stiamo a nasca da fascio, stiamo a andare in rovina. Lo diciamo tutti quanti. E Gesù lo fa apposta, e sembra che dorme, ma non dorme. Quando si sveglia, salvaci Signore, siamo perduti. Questa è una mezza bestemmia. Gesù si sveglia e dice: ma perché avete paura? Allora, uomini di poca fede. Allora, se ci abbiamo la fede, non ci turba assolutamente nulla. Io ultimamente, qualunque cosa succede nella Chiesa o nella nostra vita, chi ci pensa è il nostro Signore Gesù Cristo, non ce li pensa tu. Se voi studiate la storia della Chiesa, la Chiesa è stata sempre, in tutti e 2000 gli anni, in forme differenti, sempre come questa barca in mezzo alla tempesta. Sant'Agostino dice sempre: non è pensiero sensato e opportuno dire ah, magari fossimo vissuti nei tempi antichi, erano migliori dei nostri. No, d'accordo, no, perché ogni tempo ci ha avuto le sue angosce, le sue cose. Voi pensate com'era ridotta la Chiesa ai tempi della lotta per le investiture, ve la ricordate la storia, ai tempi di Leone VII? Ma ve la ricordate la storia? O anche ai tempi di San Francesco, ve la ricordate la storia? O anche ai tempi di Sant'Ignazio, ai tempi della riforma luterana, ve la ricordate la storia? Cioè, una montagna ce ne sono. Voi pensate al primo grande concilio, il primo concilio di Nicea, quello che fece il credo che recitiamo la domenica, quella della grande crisi ariana. Ah, oh, mo non se ne abbiano a male i vescovi di oggi, ma questa è storia della Chiesa. La maggioranza dei vescovi cattolici era diventata ariana, andava presso Ario, diceva che il Verbo non era Dio come il Padre, capito? Al concilio di Nicea c'erano pochi vescovi capeggiati da Sant'Atanasio, che era uno bello ruspante e che l'ha quasi presi per collo per dirgli firmate il credo così come sta. Mo sto esagerando un po', d'accordo? Capite? Allora perché il problema è questo qua: di chi è la Chiesa e di chi è la mia anima? È di Gesù. Questo non giustifica il disinteresse che io me ne lavo le mani. No, noi dobbiamo vivere nella Chiesa, dobbiamo fare il bene della Chiesa, dobbiamo lavorare per la Chiesa, così come io devo lavorare nella mia anima, devo pregare, devo stare vicino ai sacramenti, devo sforzarmi di migliorare, tutto va bene. Ma quando capitano delle cose che sono più grandi di noi e che non sono sotto il nostro controllo, che cosa dobbiamo fare? Niente, dobbiamo chiedere al Signore e credere fermamente che il Signore, così come ha permesso che scatenasse la tempesta, così con un attimo sgride i venti e ridono tutta la bonaccia. Questo è, ecco, è per questo che le angosce, le cose, i turbamenti non sono mai cose che vengono da Dio e manifestano sempre una vita interiore di basso costo, di basso livello. Ok, mi spiego? Andiamo ad essere indemoniati gadareni. C'avete paura dei diavoli? Due indemoniati, uscendo, gli vennero incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva più passare per quella strada. Cominciarono a gridare: che cosa abbiamo noi in comune con te, figlio di Dio? Sei venuto qui prima del tempo a tormentarci. A qualche distanza c'era una numerosa mandria di porci e a pascolare, e i demoni presero a scongiurarlo: se ci scacci, mandaci in quella mandria. Ed egli disse loro: andate. Ed essi, usciti dai corpi degli uomini, entrarono in quelli dei porci, ed ecco, tutta la mandria si precipitò dal dirupo nel mare e perì nei flutti. I mandriani allora fuggirono ed, entrati in città, raccontarono ogni cosa il fatto degli indemoniati. Tutta la città loro uscì incontro a Gesù e, vistolo, lo pregarono che si allontanasse dal loro territorio. Porta a scompiglio, d'accordo, e porta danni all'economia. Gli ha fatto secca una mandria dei porci, capito? Allora, bellissimo miracolo, insegnamenti di questo bel miracolo. Numero uno, i demoni hanno paura di Gesù, perché dicono: che cosa abbiamo noi in comune con te, figlio di Dio? Stare attenti, vi devo dire una cosa. I demoni non erano sicuri al 100%. Questa è dottrina comune di tutti quanti i padri della Chiesa, che Gesù fosse realmente il figlio di Dio. Però lo sospettavano, perché vedevano che in questo, tra virgolette, uomo, non trovavano nulla di male, non riuscivano a farlo cadere in tentazione, la stessa cosa valeva per la Madonna, dicevano: ma non è questo è il Messia? Solo che il nostro Signore al diavolo gli aveva ordito un pochino di trappole. Perché? Perché Gesù era nato apparentemente in una famiglia, perché la Madonna a fianco c'aveva San Giuseppe. Gesù non ce l'aveva mica scritto in faccia: concepito per opera dello Spirito Santo e Giuseppe il mio padre putativo, no? Quindi dice: ma come caspita è possibile? Questo c'ha una madre questa madre sposata, lui sapeva dall'inizio della storia che doveva nascere da una vergine, dice questa vergine non è, il marito c'era, però era insospettito. Allora, è bellissimo, se ve leggete come dire, gli scritti sulla matrologia della Madonna di Maria da Greta, vi sbudellate dalle risate, d'accordo? Perché dice, ogni tanto facevano il conciliabolo i demoni, ogni tanto si riunivano a consiglio e dicevano, ma questo chi è? E quell'altra donnaccia là, ma chi è questa qua? Come mai che quando ci avviciniamo dice, ma sarà lei? Ma non può essere lei, ma doveva essere una vergine. E poi lui, ma questo faceva il falegname, stava a fare una vita, poi va in giro, sì, predica, però ma è mezzo straccione, ma può essere che la divinità si mortifichi in questo modo? E però c'erano sospettiti, perché dice, però questo non riusciva, che famo? C'era questa situazione, capite? Si sbudella da ridere. Allora qui, in qualche modo, lo provocano a Gesù. Sì. Dice, che c'è da fare? Gesù non dice niente, d'accordo? Sei venuto qui prima del tempo a tormentarci? Allora, questo prima del tempo non si capisce se si riferisce a questo fatto detto da alcuni autori spirituali, non confermato, che per amore della Madonna Gesù avrebbe anticipato di qualche tempo l'incarnazione, acclarato dal fatto che Erode il Grande è morto nel 4 a.C., oppure se fanno riferimento a prima del tempo, nel senso prima che si compia la redenzione e che il potere dei demoni con redenzione compiuta sia completamente spuntato, i demoni non possono più fare i pazzi come prima, ora che siamo redenti, eh? Siamo noi che glielo facciamo fare se facciamo i cretini, d'accordo? Non si capisce. In ogni caso sentono il tormento di Gesù e vedete, cioè i demoni lo supplicano, se ci cacci, perché già sanno che hanno finito, mandaci nei porci, Gesù lo consente. Allora, cosa significa? I demoni esistono? Sì, esistono. Possono avere potere su di noi? Sì, che lo possono avere. Ma possono avere potere su gente che segue Gesù e vive secondo Gesù al 100%? Eh no, cari miei, no. Quindi se noi ci ritroviamo impelagati in qualche modo tormentati anche senza possessioni da loro, dobbiamo fare soltanto che mea culpa, perché il demonio dopo la redenzione su di noi c'ha tanto potere quanto noi glielo concediamo con i nostri peccati. Perché se noi fossimo capaci di vivere una vita di grazia al 100%, di preghiera intensa eccetera, i demoni su di noi non ci avrebbero nessun potere, nessuno, capito? Io ricordo tanti anni fa lessi in un libro, certo che bisogna che durante un esorcismo i demoni avrebbero detto queste cose, a mio avviso molto attendibili. Se uno va a messa tutti i giorni e fa la comunione e dice 4 di rosario intero tutti i giorni, noi non possiamo fargli male rilevante. Certo, andare a messa tutti i giorni e dirsi tutto il rosario intero tutti i giorni è un alto grado di unione con Gesù, capite? Però questa attestazione significa che se stai in una vita di comunione piena con Gesù, tu non devi avere nessuna paura del diavolo, è il diavolo che c'ha paura di te. Solo che chi ce l'ha questa grande vita di unione con Gesù? Perché non possiamo noi fare i gradassi, quindi pensare che tanto il demonio è stato vinto, se non abbiamo una alta vita di santità e una alta vita di unione con Gesù. Mi spiego? Ecco. E questo era il secondo. Poi abbiamo l'ultimo di questa sezione, che è la guarigione del paralitico. Ne abbiamo già parlato. Allora, quindi la guarigione del paralitico è fatta da Gesù per dimostrare che lui, in quanto Dio, ha il potere di rimettere i peccati. Vedete, alcuni scribi cominciarono a pensare, costui bestemmia, Gesù conoscendo i pensieri. La conoscenza dei pensieri nascosti, sappiate che secondo San Tommaso è un'altra delle caratteristiche divine. Il demonio non può conoscere i nostri pensieri nascosti, non può. Il demonio può sgamare le nostre intenzioni e le nostre emozioni perché è molto intelligente da come ci comportiamo, dallo studio della nostra personalità complessiva, ma non sapere quello che penso, per esempio, quando sto pregando. Il demonio non lo sa, ok? Ed è una caratteristica esclusivamente divina. Quindi capite, qui Gesù ne dà due dimostrazioni: la conoscenza dei cuori e il miracolo. Perché, voi siete mai chiesti, perché soltanto Dio può rimettere i peccati? Perché il peccato offende Dio. E perché il peccato offende Dio? In che senso il peccato offende Dio? Vi ricordate il catechismo? Che cos'è il peccato secondo Sant'Agostino? Il peccato è una offesa a Dio, catechismo anche di San Pio X, fatta trasgredendo la sua legge. È un atto, come dire, di disprezzo. Dio che si piega e ti dice: figlio mio, per il tuo bene ti dico fai questo e non fare quell'altro, a me non me ne frega niente e faccio come dico io. Questo è il costitutivo formale del peccato, che è poi lo stesso del peccato originale, tale quale è: antepongo la mia volontà a quello che il Signore mi manifesta come sua volontà per il mio bene. Ecco perché il peccato offende anzitutto Dio, ma causa poi un grandissimo male anche a noi. E quindi solo Dio può rimettere i peccati, perché il soggetto offeso dal peccato è Lui. Noi non abbiamo idea di cosa può significare una cosa di questo, cioè che cosa è il peccato. Io penso che noi lo capiremo soltanto quando stiamo in paradiso, cioè quando vedremo Dio e la sua perfezione assoluta e la sua grandezza. Cioè, se noi ci avessimo senso di Dio, se Dio dice questa cosa non la fare, ma tu ti fai ammazzare piuttosto che farla, capito? Perché se Dio ti dice non farla, è perché quella cosa è male e non devi avere nessun dubbio. Ecco perché i santi si sono fatti ammazzare piuttosto che fare un peccato. Ecco perché San Domenico Savio diceva la morte piuttosto che un peccato veniale. Non erano pazzi, furiosi o esaltati, capite? Era gente che aveva ben capito questo. Se Dio si piega e ti dà un'indicazione, ma che sei matto a non farla? Allora, per dimostrare questo, Gesù guarisce il paralitico. Non ci credete che so Dio e posso rimettere i peccati? Allora alzati e cammina. Cos'è la paralisi? Attenzione, Gesù guarisce il paralitico nel contesto della remissione dei peccati. Allora che cos'è la paralisi? La paralisi è la situazione in cui versa l'uomo imprigionato dal peccato mortale. Tu diventi incapace di fare un minimo passo verso Dio e verso il prossimo. Stai steso. E qui fate attenzione ai risvolti psicologici di questa cosa. Quanta gente passa la vita stando in giro, perché ce ne fu un altro di questi qua. Vi ricordate quando Pietro guarisce un paralitico analogo davanti alla Porta Bella, agli Atti degli Apostoli? Che sta a fare questo? Stava tutto il giorno a chiedere l'elemosina a quelli che entravano. I risvolti psicologici delle persone non sanate, delle persone non guarite da Gesù, che passano la vita a fare cosa? A elemosinare affetto dal prossimo in tutti i modi possibili, e se non glielo dai fanno i piagnistei e succede la fine del mondo, e si tormentano la vita perché tanto il prossimo c'ha altro a cui pensare, che sta presso sempre a te, e quindi non te lo dà quello che cerchi, e quindi sta tutta quanta la vita disperato a pensare e a cercare elemosinare questo qua. Ecco perché, perché non sei stato sanato e guarito da tanti peccati, da tante paralisi anche interiori, e passi la vita in questo modo, da infelice, incapace di muovere un passo verso il prossimo e verso l'Altissimo. E questo è il secondo gruppo di miracoli. Terzo gruppo, e concludiamo, abbiamo l'emorroissa e la figlia di Gairo, i due ciechi e la guarigione del muto indemoniato. Andiamo un pochino avanti. Una donna che soffriva di emorragia da 12 anni si accostò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Vedete ancora una volta il contatto con Gesù. E pensava: se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita. Attenzione a cosa dice Gesù. Mi sono dimenticato di dire anche una cosa sul primo lebbroso. Gesù, voltatosi, la vide e disse: coraggio figliola, la tua fede ti ha guarita. Attenzione, il contatto con Gesù e la fede. Voi sapete che oltre ai sacramenti esistono anche i sacramentali, che sono comunque delle cose che richiedono contatto, portare addosso un oggetto benedetto, cioè addosso, ricevono una benedizione, sia che te impongono le mani o non te le impongono, richiedono un contatto, d'accordo? Questi strumenti salvifici, a differenza dei sacramenti, che funzionano ex opere operato, funzionano anche ex opere operantis, cioè sono tanto efficaci quanto tu credi che attraverso quei segni tangibili e visibili Gesù esplica la sua forza guaritrice in te. Il perdere sangue è stato interpretato dalla tradizione spirituale sempre come immagine del peccato veniale, cioè se tu pecchi venialmente è come se, come dire, scatenassi dentro il tuo organismo spirituale un'emorragia continuata che ti indebolisce e ti rende incapace di essere capace, scusate, rende incapace di essere in grado di vivere in maniera santa, perfetta e soprannaturale. È la fede che lo guarisce. Attenzione, al lebbroso, primo miracolo, ho dimenticato, se vuoi puoi guarirmi. Lo voglio, sii guariti, sii guarito. Il lebbroso riconosce a Gesù il potere di guarirmi, di guarirlo. Io sono sempre stato convinto, convintissimo, che da tutti quanti i nostri mali, anche senza bisogno di fare miracoli, psichici, morali, spirituali, le ferite che ci portiamo dietro, eccetera, eccetera, se noi fossimo capaci di fare bene l'adorazione eucaristica, quindi andare davanti a Gesù e con fede dirgli guarirmi, io sono sicuro che saremo guariti. Ecco, questa cosa non me la leva nessuno dalla testa. Sarò fideista, sarò quello che pare, d'accordo? Sarebbe finito il ricorso a tutti quanti gli altri esperti, lavorerebbero di meno i padri spirituali e lavorerebbero molto di meno adesso gli esperti di scienze umane che sono continuamente tartassati di tante questioni, perché a mio avviso noi la fede in Gesù che guarisce non ce l'abbiamo più, né con contatto né con senza contatto. Chiusa parentesi, però questa è un'opinione mia, prendetela come volete. Poi c'è la figlia di Gairo, la risurrezione, Talita cum. Ecco, la casa del capo della sinagoga che l'aveva prima contattato, vabbè, insomma, arriva a sta casa e questa bambina era già morta. Ritiratevi perché la fanciulla non è morta ma dorme, quelli si misero a deriderlo, ma dopo che fu cacciata via la gente entrò, prese la mano alla fanciulla, si alzò e se ne sparse la fame in tutta quella regione. Attenzione, le risurrezioni evangeliche non sono come la risurrezione di Gesù, perché questa è gente che è tornata alla vita ma poi è morta. Però qui vedete che c'è già una descrizione molto importante, la fanciulla non è morta ma dorme. Che cos'è la morte per noi cristiani? E cosa significa il termine cimitero? Il termine cimitero significa etimologicamente dormitorio. Ci andiamo a riposare un po'. Infatti vedo l'ora di farmi una bella dormita. E qua non si dorme mai. Ma il cimitero ce lo siamo inventati noi. E il rispetto che si deve al corpo dei defunti dipende da questo. Adesso io dovrò fare qua, urgentemente, perché urge, voi sapete che recentemente c'è stato un documento del Cardinal Müller sulla cremazione, documento vergato anche dal Papa, perché mostra cremazione si va diffondendo in giro a macchia d'olio, perché? Perché sapete che la disciplina della Chiesa è diventata un pochino più tollerante, nel senso che una volta era proibito il funerale a chi sceglieva di farsi cremare, dopodiché è chiaro che ci sono alcune circostanze del tutto straordinarie in cui potrebbe rendersi necessaria o opportuna la cremazione. Non è detto, cioè non è sempre, come dire, dimostrato e ipso facto inferibile che tu fai quella cosa a sfregio del dogma della risurrezione della carne. Però voi sapete che ordinariamente chi è che fa questa cosa? Le persone miscredenti, lo sapete, anche adesso non fate fare nomi che si manca la carità, pubblici personaggi dello spettacolo muoiono e si fanno cremare, d'accordo? Perché? Perché dopo la morte non c'è niente, il mio corpo diventa polvere e cenere, d'accordo? Questa tradizione deriva dai pagani. Quando andremo in pellegrinaggio a Pompei, se Dio vuole, il 6 maggio che andremo agli scavi, vedremo come i cimiteri romani erano depositi di urne cinerarie, perché si facevano bruciare. Allora, questa cosa sta prendendo un po' troppo piede, ma noi cristiani non siamo così, perché il corpo, numero uno, il corpo ha una dignità anche post mortem. Durante il funerale il corpo viene incensato, capite? Perché quello è un corpo in cui ha abitato un'anima. Diversi anni fa noi andammo a Roma a vedere una mostra di gente che aveva accettato dopo la morte di farsi fare un trattamento particolare, che praticamente gli hanno svuotato, e praticamente con quel corpo ne hanno fatto poi oggetto di studio, che adesso sono esposti nei musei con tutti quanti gli organi a vista. Io quel giorno, da cretino, lì per lì sono stato contento, però poi uscendo un inserviente del museo mi disse: ma la Chiesa che pensa di questa cosa? È una cosa fatta bene secondo lei questa? Mica ce lo so tanto, hai detto fra me e voi. Non ce lo so tanto. Perché per la dignità che si deve ad un corpo dopo la morte, io non lo so se si può tanto fare una cosa del genere, cristianamente parlando. È un mio parere personale, per distinguere sempre magistero da quello che penso io. Ma mi ci ha fatto pensare. Quello diceva, io a questi lo so, ma questa era gente realmente esistente. Cioè il corpo umano di questi è il corpo di quelli che erano vivi, che sono stati miracolosamente con dei trattamenti, come dire, cioè se tu li vai ti fa quasi impressione. Si può fare una cosa di questo genere a fine scientifico? Punto interrogativo. Allora, sto documento del cardinal Müller, cioè mette dei paletti, dice: oh, non pensiamo che siccome è consentita sia una cosa normale. La cosa normale non è questa, perché per noi cristiani la cosa normale è l'inumazione, cioè è il funerale mi porti al cimitero, perché poi al cimitero vado a fare le visite, sulla tomba ci porto l'acqua santa, ci porto un cielo benedetto, ci sono anche dei suffragi che si fanno con i corpi dei defunti. E dice: se proprio vuoi far cremare, sì, il funerale è consentito se si dimostra che non è fatto a sfregio della risurrezione, però per esempio non ti può portare cenere a casa. Io l'ho viste quando ero nell'altra parrocchia, sono andato vicino a certe case a benedirle, di gente insomma che mi hanno fatto entrare, e questi c'erano un salone e l'urna ceneraria del padre o del marito. Cioè, ma poi benedire ceneri? Dico, ma a me fa senso benedire? Cioè, dico, non lo so se io ignorante, perché sono ignorante, perché con tutte queste cose che ogni tanto cambiano le discipline della Chiesa, vi confesso che dico, mica lo so se si può fare, e mi ricordo manco se l'ho fatto. Dio non voglia che abbia fatto una cosa del genere. D'accordo? Però per farvi capire, quindi è dovuto intervenire, e io adesso dovrò fare un documento per informare anche questi miei nuovi parrocchiani, devo trovare il tempo per farlo, dove gli spiego bene le cose che sono successe, capite? Perché non si deve diffondere il fatto che mi faccio cremare, vabbè, tanto è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa manco per niente, d'accordo? Proprio per questo rispetto sacrosanto del corpo, capite? Noi dormiamo dopo la morte, non stiamo dissoluti. Se io mentre dormo mi vengono a da fuoco, scusate, insomma, mi arrabbio un pochetto se mi vengono a da fuoco, no? E quindi se la fanciulla non è morta ma dorme, e noi dormiamo dopo la morte, lascia che il sonno ci abbia il suo decorso naturale. Quando il mio corpo si mineralizzerà e diventerà poi polvere e cibo per i vermi, ma facciamolo diventare naturalmente una cosa di questo genere. Ok, gli ultimi, i due ciechi che gridano, urlano: figlio di Davide, abbi pietà di noi. Vedete ancora Gesù, credete che io possa fare questo? Gli risposero: sì, o Signore, ancora sia fatto a voi secondo la vostra fede. A Nazareth Gesù non fece tanti miracoli perché non ci credevano. Se ci ritroviamo ancora con tante cose che non funzionano, torno al discorso di prima. Ma tu te pensi, sei ansioso, che se tu ti presenti davanti a Gesù e con fede gli dici: Gesù, guariscimi dall'ansia. Ma te guarisce o non te guarisce? Noi diciamo: ma no, ma dai che si guarisce dall'ansia. Io c'ho qualche sospetto. Perché Gesù è medico dei corpi e è medico delle anime, prima delle anime che dei corpi, perché i corpi diventeranno cibo per i vermi, d'accordo? Le anime no. Ce l'abbiamo noi questa fede in Gesù? Non credo tanto. Ci sono dei casi, l'ho sempre detto, in cui per certe patologie che diventano ingovernabili diventa indispensabile il ricorso a psichiatri o affini, d'accordo? Io l'ho dovuto constatare. Però prima di arrivare a quel livello ce ne passa di tempo, d'accordo? E non si arriverebbe, secondo me, a quel livello se si avesse un pochino di fede in Gesù. Vi ricordate quel passo del Vangelo di Luca dove Gesù dice: ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra oppure no? Ma ce l'abbiamo noi la fede in Gesù? Sappiamo riposare veramente in Gesù? L'episodio di prima della tempesta sedata. Ancora, ultimo miracolo. Gli presentarono un muto indemoniato. Voi sapete che c'è conosciuta, se leggete i libri degli esperti, padre a morte affini, la fenomenologia del demonio muto. Sono i demoni muti che non parlano. Scacciato il demonio, quel muto cominciò a parlare. Quindi, una malattia fisica legata a una possessione diabolica. Non c'è tempo di approfondire questa cosa, ma sappiate che gli esorcisti, leggete tutti quanti i libri di Buonanima di Padre Amort, affermano che alcune malattie sono di origine direttamente diabolica. Può succedere. E sono le stesse, hanno la stessa, il che fa capire come il demonio, come diciamo nella professione di fede la notte di Pasqua, è l'origine e la causa di tutti i mali. La causa, diciamo così, che è colpa nostra, è il peccato, ma anche dietro il peccato c'è la tentazione del demonio, e tutto quello che noi vediamo di male porta sempre alla firma del diavolo, sempre, o in maniera indiretta, quindi come conseguenza remota, o in alcuni casi come conseguenza diretta della sua azione, come in questo caso. Voi immaginate, esce il demonio e questo comincia a parlare. Non si è mai vista una cosa simile. Attenzione, ci siamo dimenticati due cose: chi è il cieco e chi è il muto, cosa rappresentano allegoricamente il cieco e il muto. Il cieco è quello che ancora non conosce la luce che è Gesù, quindi non ha un'adeguata né conoscenza di Dio, né conoscenza della realtà e né conoscenza di se stesso. Tutte queste tre cose sono attestate tra i commentatori. Il muto, sapete chi è il muto? Ci aiuta l'episodio del Vangelo di San Luca. Chi è che diventa muto? Un certo Zaccaria. Perché diventa muto? Perché non ha creduto all'annuncio dell'arcangelo Gabriele. Attenzione, nelle lettere di San Paolo, San Paolo scrive: ho creduto, perciò ho parlato. Quindi il mutismo rappresenta l'incapacità di testimoniare la fede e di dare gloria a Dio, dipendente però da mancanza di fede. Quindi con questo facciamo una piccola attualizzazione catechetica e poi finiamo, perché abbiamo già superato i 60 minuti. Caso da prete: ah padre, io mi sento in colpa perché non riesco a dare testimonianza. Se non riesci a dare testimonianza è perché c'è poca fede. Perché se tu ci credi veramente in Gesù, ma tu la dai testimonianza dovunque te trovi, anzitutto con la vita, senza andare a piede petto le persone a fargli le prediche inopportune, ma quando è necessario anche con la parola e anche con i gesti. Perché dice: sai, padre, però quando vado a mensa io il segno della croce prima di mangiare non me lo faccio. Non è il problema del peccato che hai fatto, il problema è che ancora c'è la fede piccola. Quindi poca testimonianza dipende da poca fede, e quindi la guarigione è sempre crescere sulla fede. Bene, per oggi ci fermiamo perché siamo andati già ampiamente oltre, e ci aggiorniamo alla prossima volta, che sarà probabilmente il secondo mercoledì di il secondo martedì di marzo, perché a marzo intendo procedere con il secondo e il quarto martedì per quanto riguarda l'incontro biblico, primo e terzo giovedì per quanto riguarda l'adorazione. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dai più sprint alla tua vita su internet, alla tua squadra del cuore, alle tue serie TV preferite, al tuo gaming online. Passa a Tiscali, la connessione più veloce d'Italia. Velocità incredibile e connessione stabile e potente a un prezzo super. Scegli la fibra fino a 1 giga a soli 25,95 euro al mese. E il modem super wifi è gratis. Chiama il 130, vai su tiscali.it o nei negozi Tiscali.